Salve a tutti cari amici e bentrovati dal vostro speaker vagabondo Fumino, benvenuti alla 19ª puntata di Vagabondo in giro per il mondo. Oggi mercoledì 20 di luce febbraio siamo qui a dirvi che ci sono delle speranze, insomma ecco, dopo un bel po' di appuntamenti che forse volgevano un po' al pessimismo, sono tornato ad essere un po' ottimista. E per quale motivo? Bene, alla fine mi è sembrato di aver compreso una cosa che è molto importante se questa fosse reale. Avete presente quando dentro di voi vi sentite un qualcosa nei confronti di una situazione o magari nei confronti di una persona che proprio vi nasce da dentro, quella che probabilmente è molto legata all'empatia di una persona oppure alla semplice e puro spirito di osservazione o capacità di comprensione delle altre persone. Però quando vi nasce qualcosa da dentro, un pensiero, un'idea che avete su una persona, poi questo pensiero se ne va nel dimenticatoio, come succede alla maggior parte di noi, come succede un po' a tutti e come succede molto spesso sia nei confronti delle persone che nei confronti delle situazioni. Salvo poi arriva un bel giorno che non te lo aspetti e che succede un evento per cui ti riporta al pensiero, oppure proprio effettivamente in maniera tangibile davanti a una situazione che ti fa pensare a quel pensiero che avevi avuto in un momento, come si suol dire, non sospetto, quindi molto tempo prima, nei confronti della stessa, e ti trovi a dire in effetti guarda un po', quello che pensavo, quello che conscientemente pensavo di questa situazione o di questa persona in realtà è proprio vero, è così, o come mai, o chissà perché, una cosa del genere, e la cosa ti colpisce. Bene, detto questo, quando queste cose succedono nei confronti delle situazioni, dipende sempre un po' da che situazione è che una persona vive e tutto quanto. Quando invece succede nei confronti delle persone, carta canta, nel senso che poi te, una persona, te la ritrovi davanti dopo molti anni e guarda un po', tutti i pensieri magari che avevi avuto si rivelano, non dico esatti, non dico, però ti viene di dire in effetti c'era qualcosa. E questo perché lo dico? Perché mi è capitato, dopo svariati anni, ma veramente tanti, di avere a che fare con persone con cui avevo a che fare in età giovanile, intorno ai 16-17 anni, fino, che ne so, ai 23-24 più o meno. Cosa è successo? Ai tempi chiaramente non mi rendevo assolutamente conto e la cosa era molto molto labile sia da parte mia che da parte magari delle altre persone, però mi veniva di pensare nei confronti di una di queste persone, di un gruppo di amici normalissimo come ce ne sono in tutti i paesi, come ce ne sono nelle città, o almeno ce ne erano 20 anni fa, ma insomma oggi io non lo so se i ragazzi fanno ancora comunella come usavamo farla noi in età adolescenziale, diciamo, suppongo di sì, perché comunque ne vedo, anche se magari le distrazioni sono molte di più e le situazioni che si vivono anche da soli sono molto di più anche in età giovanile, però comunque il gruppo rimane. Bene, all'interno del gruppo ci sono chiaramente un sacco di persone, uomini e donne, maschi e ragazze. Quando ti capita di relazionarti all'interno di un gruppo in questo modo molto coeso, molto unito anche alla fine, bene, e chiaramente vuoi bene a tutti, no? Ci mancherebbe, però magari poi ti viene da pensare nei confronti di qualcuno di appunto questo gruppo che in qualche modo abbia una marcia in più, anche se in effetti non fa niente in quel momento per dimostrarlo, o comunque non fa niente di così eclatante da potersi distinguere a 16 anni, ad esempio, che ne so, sì, quello ha una marcia in più perché, che ne so, suona il pianoforte in maniera egregia, lo suona, lo studia fin da quando è bambino e arriva ad avere 20 anni che magari si è diplomato al conservatorio, o forse un po' più grande chiaramente il pianoforte, che ne so, a 25 anni e suona il pianoforte da Dio, sembra Mozart, ok, magari non è in grado di comporre a 3 anni, non lo ha fatto come Mozart, quindi l'accostamento quando si toccano certi nomi sono sempre molto pericolosi, però insomma, per dire questo, cioè, non è che persone che facevano cose che però pur nella superficialità di un gruppo di persone di provincia che il tempo lo passavano maggiormente al bar, però ecco, pur in questo contesto, chiaramente se il contesto è uguale per tutti, se c'è qualcuno che un attimino spicca, anche se non vola, però un attimino spicca, quello si nota. E forse dipende dal fatto che la mia indole a penetrare dentro le persone, a capirle e a sforzarmi di farlo viene da molto lontano. Forse la mia naturale predisposizione per l'antropologia mi permettevano anche all'epoca di nutrire dei pensieri di questo tipo riguardo a qualcuno di questo gruppo. Guarda un po' cosa succede. Succede che poi, chiaramente, come succede un po' a tutti, le strade si dividono, quindi di un gruppo, che ne so, di 10 persone, 3 non le vedi proprio più da una vita, qualcuna ogni tanto la incroci, ogni tanto la senti, magari ti scambi gli auguri, il convenevole per il compleanno o per qualche altra ricorrenza, e qualcuno di questi invece resta attaccato alla tua vita perché chiaramente le incroci in maniera più assidua. Chiaramente cosa succede? La persona magari in questione però ti sparisce dalla vista e quindi per 10 anni più o meno non sai assolutamente niente di questa persona qui e assolutamente niente sa lei di te, quantomeno non in maniera diretta, ma eventualmente hai qualche notizia di seconda mano, come succede fra amici, e sai, ho visto Tizio e sai, ho visto Caio, ah sì, ma cosa fa, ma cosa non fa, e qualcosa ti viene raccontato, però chiaramente ci fermiamo all'ABC della vita di una persona, chiaramente il gossip, quello più spicciolo. Quando poi invece per motivi totalmente fortuiti mi sono ritrovato a relazionarmi di nuovo con questa persona, chiaramente è stato molto profondo anche come incontro, nel senso che fra di noi da un punto di vista amichevole c'era molta sintonia quando eravamo ragazzi, e questa cosa è rimasta pur non frequentandoci, pur non vedendoci per tanti anni, comunque è rimasto quella genuinità di pensiero dell'uno nei confronti dell'altro e quella luce negli occhi che c'è quando siamo adolescenti nei confronti delle persone, che è rimasta, e che queste cose fanno molto piacere, perché magari io anche nelle scorse puntate, affrontando argomenti che trattavano l'amicizia, chiaramente il pensiero è quello, cioè se le cose vanno vanno, se le cose non vanno non vanno, non c'è né da forzarle in un senso né da forzarle nell'altro. Ma appunto, siccome in questo caso, seguendo i segnali, alla fine mi sono ritrovato a rimbattermi in una persona e a rirelazionarmici, posso dire con cognizione di causa che effettivamente sono rimasto molto stupito del fatto che quello che io supponevo di questa persona in tempi assolutamente non sospetti, alla fine mi si è manifestato davanti, perché comunque sia, crescendo poi, ora che siamo quarantenni, mi ha dimostrato di avere effettivamente, di aver avuto un interesse per cose un po' extra ordinario, non straordinarie, perché chiaramente non sono straordinarie, però extraordinario. Alla fine non importa essere poi davvero diventati il Mozart o il Vasco Rossi del paese. Quello che importa è essere arrivati a raggiungere un livello di consapevolezza della vita che effettivamente in tanti miei coetanei dell'epoca, amici, meno più o meno amici, non riscontro e non ritrovo, o ritrovo esclusivamente a piccole dosi, a piccolissime dosi. E invece, per l'appunto, guarda un po', quella persona che supponevi non fosse proprio ordinaria, ma che fosse un attimino con uno spunto superiore anche rispetto a me, ci mancherebbe, e effettivamente, e poi mi sono ritrovato ad affrontare con questa persona discorsi molto, molto importanti, molto profondi su argomenti molto interessanti. Quindi, che dire, questo che sto dicendo è per dirvi, cari amici, che quando avete delle sensazioni che vi vengono da dentro, che non sono pilotate né da agenti esterni né da giudizi di sistema, diciamo così, ma che effettivamente una sensazione vi viene da dentro, sia che riguardi una persona sia che riguardi una situazione, il consiglio, o comunque sia quello che io faccio, quello che io nel tempo ho capito di fare e ai tempi l'avevo fatto senza saperlo, questa cosa poi l'ho elaborata dopo e in questa cosa diciamo per me è stata come la prova del 9, e quello che io faccio è seguirli, seguire i segnali, seguire quelli che sono gli istinti che vi vengono da dentro, tanto a comprendere chiaramente. C'è da essere smart, per usare un termine che va tanto di moda oggi, c'è da essere veloci nel comprendere se la strada che si è intrapreso, se i giudizi che si è dato, i giudizi può giudicare, non è nemmeno così positivo, non sono giudizi, se comunque sia la strada che si è preso, le convinzioni che si hanno in un certo periodo della vita sono effettivamente valide o no, sono effettivamente da perseguire o no, perché chiaramente una sensazione può essere anche errata, ci mancherebbe altro, l'importante è rendersene conto e siamo sempre assolutamente in tempo per cambiare, per migliorare e per andare sempre avanti. Questo ve lo dico perché con il cuore in mano l'idea che ho è di vedervi, metaforicamente vedervi chiaramente, crescere, vedervi felici, vedervi stare bene. E cari amici del Vagabondo, questa puntata è finita, vi ho raccontato questo aneddoto che mi è successo perché magari vi farà un po' pensare, vi farà ripercorrere con la mente a quando avete avuto delle sensazioni nei confronti delle persone, che siano positive o che siano negative, assolutamente non fa differenza. L'importante è riconoscere quando si presenta una sensazione del genere e se vi sale un pensiero di questo tipo, seguitelo, dategli un occhio, seguitelo e eventualmente non vergognatevi a tornare indietro, ma percorretelo con forza se invece questo segnale vi si presenterà veritiero. Cari amici del Vagabondo, la 19ª puntata finisce qua, vi do appuntamento a mercoledì prossimo con la nuova puntata del Vagabondo in giro per il mondo e anche durante questa settimana il consiglio è sempre lo stesso, siate saggi!